Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. C'è una domanda che non bisognerebbe mai fare agli scrittori ed è: stai scrivendo? Oppure che cosa stai scrivendo? Ancora peggio. Io ho avuto, come dire, l'indecenza di fare questa domanda a Massimo Carlotto alcuni mesi fa e lui mi ha risposto: ti posso dare solo un indizio, ha a che fare anche con un tubino nero, ricordando una volta di alcuni anni fa in cui, diciamo, stavamo chiacchierando di vestiti da donna e di tubini neri. Voi direte: perché tu e Massimo Carlotto parlate di vestiti da donna? Perché non è che con gli scrittori si parla sempre solo di Proust, si parla anche di cose normali, quindi anche di quello che non deve mai mancare nell'armadio di una donna. Poi, leggendo il suo ultimo romanzo, La signora del martedì, pubblicato da EO, ho capito perché aveva fatto quel riferimento al tubino nero. Massimo Carlotto è uno scrittore ormai affezionato qui al Cacciatore di libri, lo conoscete sicuramente, aveva iniziato la sua carriera da scrittore nel 95 con Il Fuggiasco, poi ha scritto tanti altri romanzi, fra i quali c'è anche la serie dell'Alligatore. E ora c'è questo La signora del martedì. Perché ci sono anche i vestiti da donna? Beh, perché vi dico rapidamente chi sono i personaggi. C'è un attore porno, ormai diciamo alla fine della carriera perché ha superato i 50, tra l'altro ha avuto un ictus, insomma, quindi inizia a diventare problematico dover svolgere quel suo lavoro. Ha un nome stranissimo, si chiama Bonamente Fanzago. Poi, ed è qui entrano i vestiti da donna, c'è il signor Alfredo. Ha più di 60 anni ed è proprietario di una pensione a Lisbona, dove l'attore porno appunto vive da tanti anni. Il signor Alfredo è un travestito, è uno che ama indossare vestiti da donna e lo fa liberamente solo quando si trova appunto nella sua pensione a Lisbona, quando va fuori, insomma, spesso è costretto, diciamo, ad assumere un'identità maschile per non essere, diciamo, non subire il pregiudizio degli altri. E poi ci sono tutta una serie di personaggi che iniziano ad entrare in questa storia. Massimo, questa è una storia, secondo me, di grande, grandissima umanità. I personaggi che ci presenti e racconti hanno una fortissima carica umana, ma fanno parte dei cosiddetti ultimi, forse, di quelli che vengono un po' emarginati dalla cosiddetta società per bene. Come mai ti sei voluto concentrare su di loro? Perché volevo scrivere un romanzo sui corpi che sono usati, amati, usati socialmente, amati, quotati sul mercato, e poi mi sono chiesto che cosa succede dopo a questi corpi, il dopo. Il dopo mi ha interessato moltissimo. E sono imbarazzato che mi stanno guardando così. Eh sì, perché qui a Radio 24 abbiamo degli studi completamente di vetro, lo diciamo, quindi passano e ti hanno riconosciuto e ti stanno guardando. Ma sarà Massimo Carlotto? Sì, è Massimo Carlotto che ci sta parlando della signora del martedì. E quindi i corpi hanno un prima, un durante e un dopo. A me interessava il dopo di questi corpi, di queste persone. E così, osservando questo mondo delle persone che vivono al lato della società, mi ha colpito molto il sogno di avere diritto ai sentimenti e di poterli praticare. C'è il sogno, dovrebbe essere il diritto la di normalità. Tutti, ma non è così, la normalità. Per esempio, la normalità di un travestito di vestirsi da donna sempre, tutta la vita. Invece no, un travestito si può vestire da donna solo quando è giovane, è appetibile, stuzzica fantasie. Ma se è un vecchio con la gonna di 65 anni... Non va più bene. Infatti tu lo scrivi, a un certo punto dici: un travestito è tollerato solo se è giovane, se può essere scambiato per una donna e stuzzica fantasie. Ma un vecchio con la gonna e i tacchi risulta grottesco, soprattutto in un mondo sempre meno tollerante. Ecco, il signor Alfredo soffre di questa persecuzione, proprio che a lui non riesce ad essere se stesso. Esattamente, riesce a essere se stessa. Se stessa, giusto, no, perché ne parli anche all'interno, delle mura della pensione di Lisbona, che in questo romanzo la pensione di Lisbona è un po' un luogo dell'anima, è un po'

E questo ha determinato un clima pesantissimo. Se finisci stritolato da questi meccanismi, non hai assolutamente la possibilità nemmeno di ribattere, nel senso che c'è una sorta di pensiero unico che si abbatte sulle persone. Tornando invece al romanzo, a un certo punto compare in una vicenda, adesso appunto non vi posso raccontare troppo, diciamo che ci sarà anche un omicidio, ma forse è avvenuto per caso, chissà, compare un uomo con gli stivali texani, che vagamente ricorda qualcuno, è stata solo una mia follia immaginativa? No. Proprio c'è poco, è lui, è l'alligatore. Diciamo, però non compare come alligatore. No, non viene mai citato, no. Solo l'uomo con gli stivali texani. Esatto. Che risolve i problemi anche, diciamo, usando al limite della giustizia, a volte superando le regole, ecco, diciamo così. Come ha sempre fatto l'alligatore. Non è una novità da questo punto di vista. E come mai hai voluto così farlo comparire in modo anonimo? Per due motivi. Primo, l'ombra della continuità, che secondo me aveva senso in questo romanzo. E secondo, questo modo di presentare l'alligatore mi permetteva anche di illustrare alcuni lati intimi del personaggio che non sono mai emersi negli altri romanzi. In cui era protagonista e quindi doveva avere, diciamo, anche un ruolo diverso. Sì, ecco. Qui è protagonista di una storia laterale dove però racconta di se stesso alcune cose in modo diverso. È più umano. Mi ha dato proprio la sensazione, questo romanzo, che tu abbia voluto raccontare appunto le fragilità e appunto, come dicevamo all'inizio, la grande umanità dei tuoi personaggi. Sì, io credo che sia importante in questo momento riaffermare la centralità dell'umanità. Cioè, tutto ciò che riguarda gli esseri umani, secondo me, può essere sviluppato in maniera molto potente anche all'interno di romanzi cosiddetti noir. Io non so se questo romanzo sia un noir oppure no. Forse non c'è bisogno di dare una definizione. Sì. È un romanzo. È un romanzo. Un romanzo. Senti, chiaramente mi ha attirato molto la vicenda, come tratti la storia del signor Alfredo, che poi declini sempre al femminile, appunto questo travestito. Ma per poter entrare nel cervello di questo personaggio, sei venuto effettivamente a contatto con qualcuno che vive quella situazione? Insomma, ti sei documentato, come si dice normalmente? Come sempre, io ho bisogno di vedere, toccare, insomma, stare dentro la storia delle persone per poterle descrivere. Questo romanzo, lo spunto proprio nasce dall'incontro in un ufficio postale con un travestito, nel senso che era travestito da uomo, ma io me la ricordavo travestita da donna. Ah, quindi l'hai vista nella versione maschile? Maschile, e le ho chiesto, ma perché? Perché? È lei che si parla di se stessa anche vestita da uomo, sempre al femminile, mi ha spiegato che non può più andare in giro perché a 65 anni i ragazzini le tirano i sassi, la gente ride, la cassiera al supermercato la tratta male. E quindi il signor Alfredo esiste? Eh sì. Come esistono gli attori porno messi certo. Così, come io racconto sempre questa umanità, però voglio essere sempre molto preciso per rispetto nei confronti dei personaggi e anche dei lettori. Io credo che sia necessario, soprattutto in questo momento, scavare sempre di più dentro le contraddizioni della nostra società. E queste persone vengono usate dalla nostra società, perché sono corpi che vengono usati e poi vengono espulsi. Nel momento in cui cambia la loro funzione. Esattamente. A proposito anche dell'alligatore, c'è un altro filo sottile che lega questo romanzo ai romanzi dell'alligatore ed è la grande passione per i distillati, perché la signora, appunto, che vada bonamente tutti i martedì pomeriggio, ha, diciamo, l'abitudine di portare sempre un superalcolico anche sofisticato, insomma, elevato, e invece nell'alligatore c'è il Calvados, quindi c'è una passione per i liquori. Sì, c'è una passione per i distillati. E anche in un mondo che beve in maniera assolutamente poco consapevole, c'è una mancanza di conoscenza assoluta rispetto a quello che è il mondo, rispetto proprio a quello che si beve, dal vino ai distillati. Alla storia che c'è anche dietro quelle cose lì. Storie pazzesche. Legame col territorio, la terra, la fatica che c'è dietro una bottiglia. Ma infatti, e secondo me non è male, cioè sarebbe anche giusto conoscere, no, la storia di quello che si consuma, quello che si mangia e quello che si beve. Però questa storia dei distillati mi ha affascinato, e pensare che questa signora ogni martedì tira fuori dalla borsa una bottiglia con due bicchieri e comincia e racconta buonamente il suo mondo, era anche un modo, no, per la signora di esprimere qualcosa di profondo che non riusciva a esprimere direttamente buonamente. In altro modo. Grazie a Massimo Carlotto. Ora grazie in libreria con La signora del martedì, pubblicato da EO. Questo è un romanzo, l'abbiamo detto, di corpi che inevitabilmente, o forse no, cambiano la loro funzione, di persone un po' ai margini, ed è un romanzo di grandissima, veramente grandissima umanità. E l'ho trovato anche un romanzo molto intimo. Grazie Massimo. Grazie. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ci sono fatti o accadimenti della storia più o meno recente che abbiamo totalmente rimosso, nel senso che non li troviamo quasi mai nei libri di storia, ma anche nelle comunità dove questi fatti sono avvenuti c'è appunto un certo processo di rimozione, non se ne parla più neanche nelle famiglie. È il caso per esempio dei bambini di Svevia, e i bambini di Svevia è anche il titolo del romanzo di Romina Casagrande pubblicato da Garzanti. Romina, partiamo subito col capire dunque chi sono i bambini di Svevia, perché questo è un fenomeno che tu insomma accenni poi anche in un'intervista, in una serie di informazioni che sono contenute nella postfazione del romanzo. È un fenomeno che è avvenuto in Val Venosta, quindi siamo nell'Alto Adige, dal 700 in poi, ma siamo arrivati praticamente a quasi il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi agli anni 30 e 40 del Novecento. Chi erano i bambini di Svevia? I bambini di Svevia erano bambini che, appunto, come dici tu, per tre secoli hanno attraversato le montagne, quindi partendo dalle valli dell'Alto Adige, in particolare dalla Val Venosta, per arrivare nelle fattorie della Svevia, quindi queste fattorie molto ricche, passando attraverso i mercati del bestiame, dove loro di fatto venivano venduti. Il fenomeno ha una durata cronologica davvero impressionante e un areale geografico di diffusione altrettanto impressionante, perché venivano coinvolti non soltanto bambini italiani, ma anche bambini dalla Svizzera, dall'Austria, che si ritrovavano poi in queste fattorie in condizioni a volte davvero, davvero terribili. Questi erano bambini di famiglie, insomma, povere sostanzialmente, sì, che li mandavano a lavorare, li vendevano, tu dici, proprio nei mercati come le bestie. E c'era un periodo specifico, questi bambini partivano dall'Alto Adige intorno al 19 marzo, per intenderci, e poi ritornavano a novembre. Quindi tutti questi mesi li passavano nelle fattorie della Svevia, appunto, quindi della Baviera, per lavorare, essere però ridotti quasi in stato di schiavitù. Sì, alcune testimonianze infatti sono davvero drammatiche di alcuni bambini che hanno avuto un'infanzia distrutta, alcuni a livello fisico proprio e altri a livello psicologico. La situazione soprattutto delle bambine era una situazione particolarmente a rischio, particolarmente esposta. E ci le sono bambine alcuni... tornavano incinte, alcune, sì, di loro. Sì, e naturalmente... Parliamo di bambine dai 5 anni fino ai 14, quindi insomma stiamo parlando proprio di bambini. Molto piccoli, che tra l'altro dovevano già fare un viaggio anche molto impegnativo, perché era un viaggio che durava 7 giorni, quindi veniva compiuto a marzo quando c'era già la neve, quindi con le caviglie nella neve, assolutamente non dotati di equipaggiamento tecnico e con il rischio delle valanghe. Ci sono dei bambini che sono partiti proprio dalla Val Venosta e che sono stati anche sepolti dalle valanghe, quindi non sono più tornati. Io mi sono documentata molto a partire dall'archivio di Ravensburg, che era poi uno dei luoghi di arrivo, ma anche dall'archivio della Val Venosta, che in qualche modo ha cercato di catalogare i bambini che sono partiti, e fa molta impressione, perché tu leggi dei nomi, una data di nascita, una data di partenza, e a volte non c'è la data di arrivo, cioè non si sa che cosa sia accaduto. Che fine abbiano fatto questi bambini? Esatto. Ecco, è una storia veramente drammatica, poi come dicevi tu giustamente è andata avanti per secoli, eppure non c'è quasi più traccia nei libri di scuola, ma anche nella stessa comunità. Non è una cosa di cui si parla, eppure appunto il fenomeno è arrivato, sicuramente si hanno tracce fino agli anni 30. Perché secondo te questa rimozione? E anche oltre. Ma sicuramente è una ferita della mia regione, una ferita che è stata vissuta, che adesso ultimamente, diciamo, le nuove generazioni cercano un po' di riscoprire. Io ho parlato con persone, con altoatesini, i cui parenti sono stati bambini di Svevia, quindi c'è adesso una maggiore apertura, però ci è voluto un po' del tempo, ecco. Tu hai deciso di raccontare questa storia attraverso un personaggio specifico di fantasia. È una donna, Edna, noi la vediamo ormai anziana, che un giorno, sostanzialmente sfogliando un giornale, vede la foto e comunque, insomma, la notizia di un uomo che è stato travolto da una valanga di fango. Quando legge il nome rimane, come dire, molto molto colpita, perché si tratta di Jacob. Jacob era il bambino che l'aveva accompagnata in questo viaggio folle verso appunto le fattorie della Baviera, ed era un bambino con il quale lei aveva intrecciato un rapporto veramente profondissimo. Si erano aiutati a vicenda. Sì, naturalmente nelle fattorie poi si creava questa comunità di bambini, anche se era molto difficile, perché le testimonianze a cui ho potuto accedere, insomma, raccontano di situazioni anche di straniamento. I bambini non sentivano mai perfettamente integrati nella realtà in cui venivano inseriti. Provavano innanzitutto una grandissima nostalgia di casa. Loro partivano da situazioni, da famiglie estremamente povere e molto numerose, paradossalmente, quindi si trattava di in qualche modo anche salvare questi bambini dando loro da mangiare, ma nonostante questo venivano privati di altro, dell'affetto, della famiglia. E in alcuni casi sfruttati, perché dipendeva poi dalla famiglia, sì, dove andavano a finire. Magari in una fattoria dove c'erano persone sensate, lavoravano, però tutto sommato venivano nutriti. In altre situazioni appunto c'era anche la questione della violenza sessuale sulle, sì, bambine. Erano alla completa mercé per questi mesi dei contadini, che facevano quello che volevano, quindi in alcuni casi tagliavano i capelli, li facevano lavoravano 12 ore al giorno. Quindi insomma era una cosa veramente pesantissima. Sì. Edna vede appunto il nome di Jacob e decide di ripercorrere, nonostante la sua veneranda età, quello stesso percorso che aveva compiuto da bambina e ritornare indietro per mantenere sostanzialmente una promessa. Loro erano appunto molto legati, avevano deciso, questo lo possiamo dire, di scappare insieme. Insomma, a un certo punto le loro strade si dividono. Ed Edna, appunto, dicevo, nonostante la sua età, decide di ripercorrere quel viaggio. Con che spirito? Edna non sa bene che cosa incontrerà sul suo cammino, e per questo è molto coraggiosa, ma anche un po' incosciente. Ha preservato, diciamo in un certo senso, anche un po' l'ingenuità che aveva da bambina. È una donna che ha sofferto tanto e la cui vita è un po' ibernata, cioè da quando lei è tornata alla fattoria, quando decide di partire, c'è un lasso di tempo che non racconta, che in qualche modo non vive neppure, fino a quando appunto decide di, lei che si è sempre nascosta e ritirata dal mondo, decide di tuffarsi nel mondo e trova varie persone che in qualche modo l'aiutano, ma non tutti l'aiutano, ci sono anche persone che non credono in lei, che dicono: cosa fai ad attraversare le montagne alla tua età con un trasportino con dentro un pappagallo anziano quanto te? E sembra una cosa effettivamente molto bizzarra raccontarla, però lei ha una promessa da mantenere, ma soprattutto ha una seconda possibilità di chiudere i conti con il passato e di trovare la felicità. Accanto appunto ad Edna c'è questo personaggio insolito, il pappagallo Emil, che ha un significato molto particolare in questo romanzo, perché c'era stato anche in passato, diciamo così. E che legame c'è fra Edna e il pappagallo, appunto? Allora, Emil è proprio il simbolo della promessa che tu non hai ancora mantenuto, però che sta lì con gli artigli e che ti ricorda, c'è qualcosa nel passato che devi sistemare. È anche un po' un simbolo che viene dalla fiaba. Edna e Jacob trovano Emil e lo scambiano per un uccello del paradiso. Del paradiso, infatti ci parlano anche. Sì, le cui piume potranno salvarli, a cui Jacob anche affida i suoi sogni di libertà, molto ingenuamente, perché di fatto anche la parte riferita ai bambini di Svevia è raccontata attraverso gli occhi di due bambini. Ecco, nel momento in cui tu hai deciso di raccontare questa storia, hai detto che ti sei naturalmente documentata e hai ritrovato anche le fotografie di questi bambini che erano vestiti di stracci sostanzialmente. Sei riuscita anche a parlare con persone che quella storia l'avevano vissuta direttamente o solo con, diciamo, familiari e persone che stavano intorno? Le testimonianze orali di familiari, e c'è poi una documentazione scritta molto frammentaria, però di interviste, diciamo, con bambini che poi sono tornati, sono diventati adulti e hanno raccontato in qualche modo la loro esperienza. Quindi io ho cercato di raccogliere queste testimonianze, queste emozioni e di creare su queste appunto i due personaggi di Edna e Jacopo che le riassumono un po'. Grazie allora a Romina Casagrande, ora in libreria con I bambini di Svevia, pubblicato da Garzanti. Questa è una storia appunto che parte dall'oggi ma ci riporta al passato, ad una vicenda dimenticata per tante ragioni appunto, di questi bambini che fra i 5 e i 14 anni erano costretti tutti gli anni a lasciare la loro terra, la Val Venosta, l'Alto Adige, perché figli di famiglie povere, e andare a lavorare in queste fattorie dove in alcuni casi venivano veramente ridotti in schiavitù. Grazie Romina Casagrande. Grazie a te. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Massimo Carlotto sulla Signora del Martedì, Romina Casagrande su I bambini di Svevia. Musiche The Gypsy Fairy Queen di Marianne Faithfull. In regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il, ma anche su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.